2024 2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 23 agosto 2015, benvenuti o bentornati a 2024, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, mi trovate su Twitter, su Facebook oppure al nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Alcuni di voi sapranno che lo scorso mese un gruppo di hacker aveva annunciato di essere riuscito ad entrare nei database di Ashley Madison, è uno dei più noti siti al mondo di incontri extraconiugali. È popolare anche in Italia, se siete interessati al genere naturalmente, e comunque è localizzato anche in italiano. Il gruppo che è riuscito ad hackerare il sito si chiama The Impact Team e ha pubblicato su internet, dopo averlo minacciato, ha pubblicato su internet i nomi, le email e anche alcuni particolari piccanti di circa 32 milioni di iscritti. Sono 39 gli iscritti a questo sito, 39 milioni gli iscritti a questo sito internet, sarebbero 32 milioni i dati di quelli che sono stati pubblicati su internet. Le conseguenze saranno abbastanza devastanti e immaginabili per la vita di molte persone che facevano tutto ciò naturalmente in segreto. Ci sono addirittura alcuni criminali che stanno già ricattando alcune delle persone trovate nel database, perché magari in alcune comunità le persone non vanno a vedere su internet. Questi criminali dicono: attento che se magari tu non mi paghi tot soldi, io vado a spifferare tutto i tuoi vicini di casa, che appunto non avevano avuto l'idea di andare a cercare nome e cognome di una tal persona e quindi non si erano accorti di niente. Poi ci sono due studi legali canadesi. La società proprietaria di Ashley Madison è canadese. Questi studi legali vogliono portare l'azienda in tribunale e chiedere un risarcimento di 578 milioni di dollari con una class action per non avere saputo proteggere i dati di milioni di clienti. Tra l'altro la privacy e la sicurezza dei dati è sempre stato uno dei cavalli di battaglia di questo sito internet, quindi ci saranno problemi per molte persone. Sui siti soprattutto americani o comunque anglosassoni non si parla quasi d'altro, è una notizia di cui si sta parlando molto. E che cosa ci insegna ancora una volta questa vicenda, questo fatto? Che bisogna essere particolarmente prudenti su quello che si fa su internet, pensando che i dati di quello che facciamo, i dati che mettiamo su internet potrebbero essere diffusi, soprattutto cose di questo genere. Se parliamo ad esempio del settore finanziario, molte istituzioni finanziarie sono particolarmente protette. Invece in cose del genere forse la sicurezza dovrebbe essere aumentata. Altra notizia prima di passare alle nostre digital news e poi all'approfondimento di questa settimana. Parliamo di smartphone. Gartner ha pubblicato i dati di vendita degli smartphone a livello mondiale per il secondo trimestre e a fronte di 330 milioni di smartphone venduti in tre mesi, quindi parliamo sempre di numeri eccezionali, incredibili, allora si registra ancora una crescita, parliamo del 13,5% rispetto allo stesso periodo del 2014, che però è la più bassa dal 2013, quindi dopo un paio di anni si registra una crescita un po' più bassa. Per la prima volta si registra, pensate, un calo delle vendite degli smartphone in Cina, che rimane comunque il primo mercato e ha un peso su tutto il mercato mondiale del 30%. Quindi poco meno di un terzo degli smartphone venduti nel mondo sono venduti in Cina. Secondo Gartner però la Cina ha raggiunto, per quanto riguarda il mercato della telefonia in generale, quindi mettendo insieme sia i normali telefonini e anche gli smartphone, ha raggiunto la saturazione, quindi mercato saturo. Pensate in quanto poco tempo la Cina ha raggiunto questo livello. Nei paesi occidentali ci abbiamo messo un po' più di tempo. Allora, il mercato è saturo e i nuovi telefoni sostanzialmente sono venduti solo a persone che già avevano un telefonino, quindi mercato essenzialmente di sostituzione. Se andiamo a analizzare e a guardare i dati più precisi, allora vediamo che in questo trimestre è stato lanciato, o meglio è stato lanciato un po' prima, però diciamo in questo trimestre non ha beneficiato Samsung delle vendite del Galaxy S6. Infatti Samsung cala, rimane pur sempre il primo produttore, però cala dal 26,2% al 21,9%. Stiamo parlando del mercato dei soli smartphone. Mentre Apple continua invece a beneficiare del buon andamento dell'iPhone, che solo in Cina è cresciuto in termini di vendite del 68%. Comunque la quota di mercato mondiale di Apple sale dal 12,2 al 14,6%. Sale anche Huawei, il produttore cinese forse più brillante degli ultimi tempi, dal 6,1 al 7,8%. Huawei vende qualcosa come 25 milioni di telefoni in questo trimestre, 48 milioni ne ha venduti Apple e 72 milioni Samsung. Poi c'è Lenovo che cede un po' di terreno, Lenovo vende anche con il marchio Motorola e al 5% dal 6,6%. Xiaomi, l'altro cinese, Xiaomi cala, o meglio sale un pochettino, ma sostanzialmente rimane stabile dal 4,3 al 4,9%. Comunque il dato interessante è che nel mercato dei telefoni molto costosi, quindi di alto livello, la parte del leone la continua a fare Apple, tutti gli altri calano come quote di mercato. Se andiamo a guardare i sistemi operativi, Android scivola leggermente di poco, dall'83,8 all'82,2% di quota di mercato, iOS dal 12,2 al 14,6, Windows sostanzialmente stabile dal 2,8 al 2,5%, poi tutti gli altri, BlackBerry e qualche altro sistema operativo. Se andiamo a guardare dell'ultimo dato che analizziamo insieme, se andiamo a guardare il mercato dei telefonini in generale, quindi non solo smartphone, Samsung è sempre il numero uno, scivola leggermente dal 21,9 al 19,9, Apple dall'8% passa al 10,8%, Microsoft dal 9,9 al 6,2%, Huawei dal 4,1 al 5,9, poi c'è LG e poi quasi tutti i cinesi, Lenovo, Xiaomi, TCL, ZTE, e c'è una nuova entrata con una quota del 2,2% della indiana Micromax. Adesso alcune notizie in breve della settimana. Digital News. Iniziamo da una notizia che riguarda il mondo della TV. Secondo alcune indiscrezioni raccolte dal sito Digital TV Europe e rilanciate in Italia dal sito dday.it, Sky starebbe pensando di iniziare le trasmissioni in 4K in Germania nel corso del 2016, con un canale dedicato e anche un nuovo decoder. Non c'è nessuna conferma e non è chiaro poi se il progetto possa riguardare anche l'Italia. L'importante sarebbe che si cominciassero a produrre contenuti, cosa che invece non viene fatta, nemmeno per i film d'azione che meriterebbero invece una produzione in 4K. Pensate che nemmeno Mission Impossible, appena uscito anche in Italia, è girato in Ultra HD, quindi in 4K, ma solo in alta definizione, solo in 2K. E soprattutto al cinema si nota la cosa. Altra notizia che riguarda la TV, in questo caso in sola alta definizione, dal 15 settembre sul canale 557 del digitale terrestre italiano inizierà le trasmissioni Rai Sport HD. Il canale dovrebbe essere visibile nelle zone coperte dal multiplex che attualmente trasmette Rai HD, quindi il 501, sul canale 501, e naturalmente visibile anche sulla piattaforma satellitare TVSAT. È una buona notizia perché, lo diciamo spesso, 2024, il digitale terrestre italiano è vergognosamente povero di contenuti HD. Digital News. Il centro ricerche Samsung in Texas propone di portare internet via satellite e di mandare in orbita 4.600 microsatelliti in un'orbita compresa tra 160 e 2.000 km di altezza, che potrebbero fornire velocità nell'ordine del terabit, quindi piuttosto elevata, con latenza molto bassa. Però questo è un progetto, non è nemmeno il primo del genere. E anzi, OneWeb ha già firmato un contratto con Arianespace per $1 miliardo per il lancio dei satelliti e ha già affidato ad Airbus Space and Defense la costruzione di 900 satelliti. Altro progetto è quello già operativo di O3B, che però ha pochi satelliti, una costellazione, è un progetto basato su tutt'altra architettura. E poi c'è un'idea molto simile a quelle che abbiamo descritto, che è quella di SpaceX, che punta entro 5 anni a mettere in orbita una costellazione di 4.000 satelliti per connettività internet. Digital News. Un'ultima notizia riguarda WhatsApp, la versione web del popolare sistema di chat è ora compatibile anche per chi usa WhatsApp su iPhone. La cosa è già disponibile da tempo per gli utenti Android di WhatsApp, è possibile accoppiare quello che abbiamo sullo smartphone a una piattaforma web, quindi continuare la chat con i nostri contatti all'interno dei nostri gruppi WhatsApp sullo schermo del computer. Se uno sta molte ore al computer è sicuramente una bella comodità. Adesso ci fermiamo, questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, continueremo tra poco e parleremo di pagamenti in mobilità. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Questa settimana è stato lanciato in Corea del Sud, ma arriverà poi negli Stati Uniti alla fine di settembre e nei mesi successivi anche in Europa, partendo molto probabilmente da Gran Bretagna e da Spagna. Vedremo poi quali saranno gli altri mercati. Samsung Pay, il sistema di pagamento simile o comunque ispirato ad altri che sono sul mercato, non ultimo Apple Pay, lanciato e ideato da Samsung. Ci sono alcune particolarità di questo servizio che è sicuramente ha una rete di accettazione maggiore, ma partiamo da qui per fare il punto della situazione anche sul mercato italiano con Valeria Portale, che è responsabile della ricerca all'interno dell'Osservatorio Mobile Payment and Commerce del Politecnico di Milano, uno dei tanti osservatori sulla tecnologia del Politecnico. Benvenuta a 2024. Buongiorno a tutti. Allora, stiamo parlando di pagamenti digitali tramite smartphone, quindi stiamo parlando di un sistema di questo genere. Ne esistono già sul mercato, ma partirei proprio dall'annuncio di Samsung. Che senso ha all'interno della strategia di Samsung avere anche il sistema di pagamento e non appoggiarsi magari su altri che esistono già sul mercato? Allora, sicuramente l'annuncio è un annuncio particolarmente interessante, perché vedremo evolversi sicuramente tutto questo mercato dei pagamenti attraverso smartphone anche grazie a queste novità, a questi nuovi wallet che anche i produttori di terminali caricheranno sui propri telefoni. Samsung, dobbiamo dire che non poteva di certo tirarsi indietro, di certo Apple è partita prima di tutto negli Stati Uniti e Samsung non poteva di certo non lanciare un proprio servizio. Detto questo, io credo che sia una funzionalità quella dei pagamenti via cellulare che ormai tutti i telefoni adotteranno. C'era Apple, c'era Samsung, ma anche i sistemi operativi tipo Android, anche Windows, quindi sicuramente è una funzionalità che tutti adotteranno. Poi Samsung ha anche utilizzato delle strategie particolarmente interessanti, perché ha abbinato la tecnologia contactless anche a una tecnologia un po' più tradizionale di pagamento con banda magnetica, quindi aprendo la possibilità di pagare in qualsiasi punto vendita che accetta una carta di pagamento. Quindi sicuramente non sarà limitato questo sistema di pagamento ai POS che sono già abilitati per il pagamento senza fili, quindi quello proprio solo a sfioramento, diciamo così, basta avvicinare il telefono, ma a tutti i POS che già oggi permettono il pagamento con la classica banda magnetica. Poi non entriamo in tecnicismi su sicuro, meno sicuro, perché sappiamo che in Europa sostanzialmente ormai si usa molto poco la banda magnetica, ma si usa la carta col chip, e sappiamo che questo è un sistema molto più sicuro, ma visto che il mondo è un po' più arretrato, tra virgolette, rispetto all'Europa. Non entriamo in questo tema. Vorrei fare una domanda di carattere generale. Uno potrebbe domandarsi, vabbè, ma già la carta di credito o il bancomat, comunque la tesserina con cui possiamo pagare al POS, è molto comoda. Perché è più comodo, se è vero che è più comodo, ma quali sono i vantaggi di avere questo sistema sullo smartphone? Virtualizzare la carta di credito o il banco, insomma qualsiasi carta all'interno dello smartphone, perché è più comodo? Allora, a dire la verità, se guardiamo solo alla funzionalità del pagamento, cambia poco avere la carta di credito dentro un telefono oppure una carta di credito fisica. La differenza saranno tutti i servizi aggiuntivi che si potranno agganciare all'interno del telefono, cioè immaginiamo di poter andare in un negozio e avvicinare il telefono e contestualmente pago, mi accreditano i punti sulla mia carta fedeltà che è caricata nel mio telefono, magari mi riconoscono che ho diritto a un coupon, quindi a un codice sconto, quindi tutto in un unico tap, in un'unica modalità, tutto sul mio telefono, quindi l'integrazione di tutti questi servizi è la vera comodità. Il solo pagamento probabilmente è vero, la carta di credito è sufficientemente comoda per non essere poi così differenziale il telefono. Sì. Tutto quello che invece potrà girare attorno, e poi immaginiamo anche ho uno schermo interattivo, io posso monitorare costantemente le mie spese, posso magari anche capire quanto ho speso investiti questa settimana rispetto a in cibo, ok? Quindi si potranno costruire una serie di servizi che saranno particolarmente interessanti e comodi per il consumatore. Oggi noi in Italia abbiamo già una offerta con, non so se dire molti, comunque insomma c'è un certo numero di servizi di questo genere, cioè già oggi è possibile pagare con lo smartphone in una rete di accettazione di POS abbastanza diffusa, però mi sembra che il mercato non sia decollato, non possiamo dire che sia un successo, o mi sbaglio? Sì, esatto, siamo all'inizio di una nuova tecnologia, quindi ci sta che all'inizio si parta anche un po' più lentamente. Dobbiamo dire che l'Italia è partita anche prima degli altri paesi guardando a un modello in cui le banche si sono messe d'accordo, hanno fatto degli accordi con gli operatori telefonici. Questo sicuramente non è semplice perché in Italia abbiamo oltre 700 banche e abbiamo 4 grossi operatori e più tutti gli operatori virtuali, quindi mettere d'accordo tutti questi attori non è semplice. In più abbiamo anche il fatto che a livello internazionale si stanno affacciando tante novità, Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay, quindi ci sono tante novità che stanno, diciamo, mescolando ancor più le carte, quindi questo ci fa dire che l'Italia è partita, ma probabilmente deve ancora capire in che modo configurare tutti i servizi per essere competitiva non solo a livello italiano ma anche a livello internazionale. Questi nuovi sistemi, Apple Pay, Samsung Pay, ma soprattutto Android Pay, che dovrebbe aprire l'utilizzo del sistema di pagamento anche ad altre applicazioni, ci sono anche molte novità che potrebbero arrivare presto, auspichiamo che arrivino presto, messe a disposizione da Visa e da Mastercard, sono per il consumatore finale più semplici o sostanzialmente sono uguali? Ma per il consumatore si sta andando sempre verso una maggior semplicità. Sicuramente Apple ha lanciato anche l'elemento dell'impronta digitale, ossia io posso riconoscere il pagamento attraverso l'impronta digitale. Questo semplifica ancora di più l'utilizzo di questi sistemi, quindi si sta andando nella direzione di semplificare mantenendo però la giusta sicurezza. Il consumatore, ricordiamocelo, sceglierà quella soluzione che gli semplifica la vita e che gli crea valore aggiunto. Samsung, Apple, ma anche Google stesso hanno dimostrato di saper configurare dei servizi che vanno in questa direzione, quindi credo proprio che vedremo qualcosa che porterà un vantaggio sicuramente interessante per il consumatore, sempre in una logica di semplicità, velocità e comodità. Quindi potremo vedere, e non sarebbe il primo caso, servizi che sono già disponibili, sicuri, che funzionano, lanciati da banche e operatori telefonici che vengono o verranno superati da servizi messi a disposizione invece da operatori o comunque aziende che non sono specializzati in quello, perché Apple, Samsung e Google non sono specializzate nel mondo dei pagamenti, ma forse sono maggiormente in grado di fornire soluzioni facili e anche forse un po' sexy per i consumatori. Assolutamente, questo è possibile. Dobbiamo anche dire però che banche, operatori telefonici stanno guardando con molta attenzione proprio per rispondere tempestivamente e quindi magari migliorare anche i propri servizi alla luce di quello che fanno i competitors, i grandi player. Quindi sicuramente c'è un rischio per gli operatori italiani, ma anche un'opportunità anche di imparare e muoversi velocemente per cercare di adattare i propri servizi agli standard che si stanno definendo a livello internazionale, a fronte del fatto che ancora non sembra arrivare Apple Pay o Android Pay o Samsung Pay, non sembra ancora arrivare in Italia, quindi dovremo aspettare ancora qualche mese. Questi mesi probabilmente potranno essere utilizzati dagli operatori telefonici, dalle banche italiane, anche per prepararsi meglio all'arrivo imminente di questi attori. Imminente quanto? Potrebbe arrivare già nel 2016 qualcosa? Si vocifera che sarà il 2016, si sperava che fosse il 2015, ma le priorità sembrano più concentrate verso UK, quindi Inghilterra, probabilmente la Spagna partirà prima di noi. Sarà sicuramente interessante capire che cosa avverrà anche in Italia, anche a fronte di quello che c'è già nel contesto italiano. Quindi probabilmente il 2016 sarà l'anno in cui questi grandi attori giocheranno la partita anche in Italia. Dovrebbe arrivare. Per quanto riguarda il mercato italiano, quanto sono diffusi questi servizi? Cioè, quanti ce ne sono e soprattutto quanto sono diffusi, giusto per avere un'idea? Allora, sono stati lanciati nel corso del 2014 già una serie di servizi di pagamento con smartphone particolarmente interessanti. Parliamo delle poste, parliamo di Mediolanum, Banca Mediolanum, parliamo di UbiBanca, ne ho citato solo alcune, ma ce ne sono anche molti di più. Gli operatori telefonici più attivi sono sicuramente Telecom Italia e Vodafone, quindi diciamo che c'è stato forte fermento a livello di offerta. Ancora probabilmente però non sono così diffusi tra gli utenti, perché probabilmente non sono stati promossi o comunicati ancora in modo massiccio, quindi dobbiamo anche dire che gli utenti che lo utilizzano ci risulta essere ancora poche migliaia di persone. Poche migliaia sono veramente poche, effettivamente. Sì. Se guardiamo appunto al panorama invece delle carte di pagamento, in quel caso parliamo di milioni, di decine di milioni di carte di pagamento. Oggi tra i modelli, senza scendere in tecnicismi molto complicati, perché poi il sistema di pagamenti è uno dei mondi più complicati che noi conosciamo oggi, e anche su questo potremo vedere qualche semplificazione nei prossimi anni, tuttavia ci sono vari modelli. Oggi molti di questi modelli si basano su un elemento sicuro che è la SIM, quindi un elemento fisico. Se io voglio trasportare il mio sistema di pagamento in un altro telefono, devo spostare questa SIM. Nel caso di Apple e Samsung ci sono dei vincoli legati ai terminali. Con Apple posso usare solo iPhone, con Samsung posso usare solo terminali Samsung. È possibile che i prossimi servizi, o meglio, i servizi che faranno successo nei prossimi anni, siano invece basati solo su un'app e io cambio telefono, basta che reinstalli quell'app, entro con le mie credenziali e tutto funziona così come qualsiasi altro servizio al quale noi siamo abituati sugli smartphone con le applicazioni? Assolutamente sì, e questa è un po' la direzione in cui sta andando Google e Android in generale, proprio il cercare di mettere questo elemento sicuro nel cloud e quindi di consentire all'utente di accedere a questo elemento sicuro da qualsiasi device in qualsiasi momento semplicemente attraverso un'app. Bisogna però considerare che bisogna poi rispettare tutti i canoni e gli standard di sicurezza, perché non stiamo, quando parliamo di pagamenti parliamo di elementi molto delicati in cui l'utente deve essere rassicurato al 100% che i propri dati non vengano derubati da qualche hacker o da qualcuno. Quindi si sta andando in questa direzione e i circuiti Visa, Mastercard in particolare stanno lavorando proprio per garantire la massima sicurezza a soluzioni che avranno questi elementi sicuri nel cloud. Quindi virtualizzare il tutto e rendere molto più flessibile il tutto. Sì. Un'ultima domanda su alcuni player indipendenti, startup che stanno nascendo in questo mondo. Sappiamo da alcuni dati che il cosiddetto fintech, cioè la finanza che investe in nuove soluzioni nel mondo non solo dei pagamenti ma in generale della finanza, in Europa è al primo mercato l'Europa, perché ci sono tutta una serie di normative che agevolano molto la semplificazione del sistema. In Italia noi abbiamo parlato ad esempio di Satispay, che è una società che offre un sistema di pagamento indipendente da tutti quelli che noi conosciamo. C'è spazio per player di questo genere o Apple, Samsung, Google e i grandi player faranno fuori un po' tutti? Allora, per ora io direi che possiamo dire che per ora c'è spazio. È ovvio che in un contesto come quello italiano, dove i grossi attori del mondo dei pagamenti come le banche o gli operatori telefonici hanno delle carte in più, quindi hanno più facilità a entrare nel mercato dei pagamenti, detto questo però c'è spazio per appunto startup particolarmente innovative che vogliano offrire dei servizi a valore per il cliente. Satispay è un esempio, che è un servizio semplice, veloce e comodo e che sono sicura che troverà il favore dei consumatori. Quindi lo spazio c'è e sicuramente l'ingresso nel mercato di questi attori porterà a aumentare la competizione. Aumentare la competizione significa creare maggior valore per il consumatore, perché vincerà chi saprà meglio trovare la soluzione che piace al consumatore. Quindi anche Samsung, anche Apple si troveranno a fronteggiare una competizione un pochettino più ampia. Quindi sicuramente loro giocano, hanno delle carte in più, perché sappiamo tutti che l'iPhone è in tasca a milioni di italiani, però bisognerà anche capire come giocheranno le loro carte le startup e se ci saranno delle opportunità interessanti anche per loro. Molto bene, io ringrazio Valeria Portale per essere stata con noi, a presto e buon lavoro. Grazie a tutti, buona giornata. E come sempre grazie anche a tutti voi che avete scaricato questa puntata di 2024, questa è la versione podcast con le nostre interviste, la nostra intervista essendo ancora in versione estiva, una o due interviste a puntata in versione integrale, quindi tutta la nostra intervista solo per i nostri utenti podcast. Fate pubblicità al nostro podcast, quindi fate abbonare nuove persone, tanto è tutto gratuito, si paga solo la connessione dati. Io sono Enrico Pagliarini, ci possiamo sentire via mail 2024@radio24.it. Potete usare anche Twitter o Facebook nella nostra pagina di 2024 oppure l'account Twitter di Enrico Pagliarini. Ci risentiamo la prossima settimana con una nuova puntata, sempre la domenica 13 dopo il GR delle 13 oppure 23:30 o naturalmente via podcast. Un buon ascolto con i nostri programmi. 2024. 31 seconds in.